notte e giorno faticar, per chi nulla sa capir, pioggia e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentil uomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, non, non, non, non, non, non, non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuol star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, non, non, non, non, non, non, non voglio più servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non, non, non, non, non, non mi voglio far sentire. che pogello vi sei? Son qui per mia disgrazia, e voi? Son qui. Chi mordò voi o il vecchio? Che domanda da bestia, il vecchio! Bravo, due imprese leggiadre, sforzar la figlia ad ammazzare il padre! L'ha voluto suo danno! Madonna, cosa ha voluto? Taci, non mi seccar! Vieni meco se non vuoi qualche cosa ancor tu! Non vo nulla, signor, non parlo più! Ah, del padre in periglio, il soccorso vogliamo! Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma dov'è il scellerato? In